A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. La non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ce vado io, bacio la tua. Non mai lavorato in vita vostra, andate a rompere le unioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non capisco voi in questo scempio, voi due, in questo scempio che fate in questa trasmissione che spero chiuda presto, perché dovete essere a ride perché avete i soldi, ma i soldi non sono tutto. Oh, a proposito di chiudere, c'è un scrittore, uno scrittore abbastanza famoso, ne parleremo più avanti che c'è tempo, uno scrittore abbastanza famoso che si augura la chiusura di questa trasmissione, ne parleremo. Non è nel primo, nell'ultimo. Allora, dirò una cosa buonista, Parenzo, ti sorprenderò su questo, perché va bene il giornalismo militante, o comunque va bene il giornalismo di chi prende posizione, di chi dice la sua. A me non piacciono quelli che fanno i vigili urbani o quelli che dirigono il traffico senza prendere posizione, quella signora, quella gentile signora che ha fatto lo sgambetto, quella cameraman, quella giornalista di una televisione ungherese che ha fatto lo sgambetto a un profugo, beh, hanno fatto bene a cacciarla, diciamo la verità, hanno fatto molto bene a cacciarla, direi. Ma la polemica del giorno incredibilmente è sul fatto che Bruno Vespa ha ospitato ieri sera Porta a Porta una parte della famiglia Casamonica, in particolare Vera Casamonica, che credo che sia la nipote o non so no, che no, cosa. No, è proprio la figlia. La figlia del boss morto, boss, del presunto signore, boss morto, del signor Vittorio. Del signor Vittorio Casamonica, quello del funerale, eccetera, eccetera. Allora, io dico una cosa, siccome la polemica è venuta soprattutto dal Partito Democratico di Roma, il Partito Democratico di Roma, cioè i vertici del Partito Democratico di Roma, che tra l'altro coincidono con quelli nazionali, perché Orfini, che è uno dei leader del PD romano, forse addirittura il presidente del PD di Roma, e anche il commissario è il presidente del Partito Democratico Nazionale, perché è stato commissariato, dicono addirittura questi signori che è stata offesa Roma, cioè Vespa ha offeso la città ospitando i Casamonica. Allora io dico una cosa, il Partito Democratico, non Orfini naturalmente, che è infiltrato sicuramente dal malaffare, abbiamo visto Mafia Capitale, è inutile che vi sto a ripetere le cose, che si permette di criticare un signore che fa il suo mestiere, discutibile o meno naturalmente nei suoi modi e in quello che fa, come ne discutiamo più volte qui alla Zanzara, su quello che fa Vespa o su quello che dovrebbe fare Vespa, si permettono di criticarlo perché ha ospitato Casamonica. Cioè ha ospitato il PD di Roma, il PD di Roma critica Vespa. Ah, dai, su, ma siamo veramente al paradosso. Non solo, il sindaco Marino dice la partecipazione a una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico Rai della famiglia Casamonica è grave. Ma quale grave, Marino? Ma è grave cosa? Quello ha fatto il suo mestiere, ha intervistato Casamonica, ma che doveva fare? Un milione di spettatori hanno assistito sostanzialmente a un replay dei funerali spettacolari e mafiosi già finiti sui giornali. Cioè, adesso Marino dice a Vespa che ha fatto male il suo mestiere, capito? Marino no, dice a Vespa. No, questa è una follia. Tra tutte le polemiche, l'unica sensata è Vespa ha fatto benissimo a fare il suo mestiere di giornalista. E qual è la polemica sensata? Che non ce ne sono, secondo l'unica me. Qual è? L'unica sensata è chi dice in commissione antimafia, sì, chi chiede in commissione conto, antimafia, che già la follia che esiste una commissione antimafia. L'ho letto forse che già andrebbe cancellata la commissione antimafia, no, dunque non può produrre nulla di positivo. La sensata è chi chiede, visto che di servizio servizio pubblico si tratta, sì, se i signori Casamonica, per esempio, i studio sono stati pagati per la loro presenza. Questa è l'unica... Beh, certo, fossero stati pagati per la loro presenza, ma io non credo che siano stati pagati. No, ma questa è l'unica, tutto vabbè, il resto è fuffa. Quello però è roba che riguarda la RAI e il modo di reclutare gli ospiti. Riguarda il fatto che tu paghi i figli di un presunto criminale. Senti, o tu sai bene che nelle televisioni avviene anche questo, lo sai molto bene. Tu non magari non l'hai mai fatto, tu infatti non l'hai mai fatto. Non l'hai mai fatto. Però no, ma è pieno di, è pieno di gente. No, tutte... ma capisco la polemica, sul, poi posso anche dire la mia su questo, ma potrei anche dire che magari ha fatto bene a pagarlo, ma non lo dico se fosse vero. Però l'unica polemica è che, siccome si tratta di servizio pubblico, l'unica cosa da sapere è questa qua, cioè se i signori Casamonica sono stati pagati con i soldi pubblici per andare in trasmissione. È l'unica polemica, sul resto... A parte che, secondo me, se fossero stati pagati con un gettone di presenza per partecipare a una trasmissione, non ci sarebbe nulla di strano. Beh, però, amico mio, tu capisci bene che contribuire ai termosifoni o ai cessi d'oro con un gettone di... Vabbè, ma quello ci può, la polemica su quello ci può stare. Però, secondo me, siccome tutti, siccome le persone che vengono invitate spesso vengono pagate e nessuno lo sa, e nessuno lo sa che vengono pagate... Beh, no, il servizio pubblico si deve sapere, invece. Ma... ci sono i gettoni di presenza, sai, elimini questo problema con i gettoni di presenza. Comunque, la cosa più incredibile è questa signora Vera Casamonica, ripeto, figlia di Vittorio Casamonica, la quale a un certo punto descrive il lus, i rubinetti comprati per le case. Senti, senti. Molto simpatico. Io c'ho il bagno che l'ho comprata a Via delle Capannelle. È bello. Diciamo, avevo comprato dei rubinetti modelle Cristine, me se sono rotte. L'ho levata e l'ho sono andata a comprare a Leone Marrò, l'ho sono andata a comprare. Vabbè. Senti, a un certo punto sul lusso sfrenato, sul lusso sfrenato è stupenda questa cosa qui, sul lusso sfrenato che hanno trovato alcuni investigatori nelle case. Sono rimasti impressionati dalla ricchezza di queste abitazioni, dalla lo sfarzo, vedete? Dallo sfarzo assoluto. Ma sai che è, dottor Vespa? Perché, no, non sto dicendo a lei, no? No. A questo pubblico, perché non lo capisce le case belle, le case ordinate, le case pulite, perché sono delle zozze. Sono delle zozze. Chi sono delle zozze? Dell'altra gente che quando vengono a vedere dentro casa dell'altra, perché noi ci teniamo tanto alla pulizia. Ma io non sto parlando della pulizia. Sì, che cosa sta parlando? Di un bagno, bello? E vai, lo vai a comprare. Quando può venire un bagno bello? 500 euro, un milione. Allora, il padre aveva una faccia buona. Senti, senti. Il manifesto là, sì. Il manifesto di un boss. Tra l'altro, guardi, vestito da simil papa sopra San Pietro, per incidere. E quello tu lo chiami un boss. Guarda che faccia che... Ma infatti è una faccia bella, allegra. È buona. È un boss allegro. E tu lo chiami boss, è un boss allegro. Ma i boss sono cattivi, Beh, i boss mica sono tristi. A mio parere questa intervista è da manuale, cioè vengono fuori degli spaccati da questa intervista di Vera Casamonica che sono stupendi, meravigliosi, stupendi, stupendi. Anzi, dico di più, secondo me Vespa doveva fare il plastico della chiesa con il coso, mi sono stupito, doveva usare ancora di più, perché non ha fatto il plastico della carrozza? No, ha fatto una cosa ancora il plastico più bella. Dell'elicottero, che ha fatto? Non mi ricordo. No, perché ha non ha visto una cosa ancora più bella che avevamo fatto anche noi qualche settimana fa, cioè è andato a raccontare tutta la storia della carrozza. Che beh, certo, la storia della carrozza è meravigliosa. Dai, su, ma è stupendo, è tutto meraviglioso. Ma insomma, alla fine, ragazzi, ma stiamo scherzando, ma sti Casamonica non possono fare il funerale come cazzo vogliono. Beh, dai. No, un momento adesso. Sì, il funerale come cazzo vogliono. Ognuno fa il funerale come vuole, come vuole. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Beh, questo è da record, Alfano parla e dice: ho capito io prima di tutti il fenomeno dell'immigrazione. Alfano: noi abbiamo il record mondiale di accoglienza, siamo campioni del mondo nel salvataggio di vite umane e in accoglienza, e oggi per me è un giorno in cui posso davvero dire che avevamo capito, e se mi è permesso, avevo capito prima degli altri 2 anni fa quello che si stava verificando. È stupenda questa cosa qua. Avevo capito 2 anni fa quello che si stava verificando. Siccome la Merkel fanno credere naturalmente che accolgono tutti, in realtà non è così. Allora Alfano dice: beh, avevo capito tutto prima io. Salvini contro Morandi. Daresti qualche nome a Gianni Morandi di italiani che sono in difficoltà, visto che immagino tu ne abbia... Magari di quel cittadino di Mirandola, Antonio, che ha provato a darsi fuoco in comune, perché l'avevano buttato fuori persino dal container, dopo che aveva perso la casa nel terremoto. Prova a dargli quel nome al Giannone. Vespa, a proposito di questa vicenda, dice: vogliono i siriani Vespa sulla Merkel. Tanto è un po' antipatico, perché siccome i siriani sono più colti dei nigeriani, tutti dicono ci pigliamo i siriani, e invece sarebbe corretto, ti pigli tanti siriani, tanti nigeriani, e anche noi ci pigliamo tanti siriani, tanti nigeriani. Posso dire due cose velocemente? Vespa, diciamo, alla Cruciani, quello che ho detto io nei giorni scorsi. Allora, abbiamo ospite, sono molto contento, Vittorino Casamonica, in arte Victor, che è nipote di Vittorio Casamonica, cantante, tra l'altro era presente cantante. Ieri. Sì, è un cantante, ed era presente anche lui ieri alla puntata di Porta a Porta. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Allora, lei è nipote di Vittorio Casamonica, giusto? Sì. Allora, volevo capire una cosa, come vede questa polemica che ha innescato in realtà non solo il PD di Roma, cioè una parte della politica italiana, e non solo il sindaco Marino? Ma lei ha preso un gettone di presenza per andare lì ieri sera? Sì, pronto? Sì, Vittorino, chiedeva Parenzo se lei o sua cugina lì se siete stati pagati per andare da Vespa. Assolutamente no. Cioè non c'è stato nessun gettone di presenza? No. Benissimo, ma tornerete da Vespa in trasmissione? No, non lo so, se ci invita, perché no, insomma. No, perché mi sembra che il suo avvocato ha detto, beh sì, insomma, si potrebbe rifare, si può rifare, si rifarà, o no? Beh, ripeto, se ci invita, perché no, insomma, il Vespa è stato una persona gentile, è stata una persona che ha dato la possibilità di dire la verità come sì, è, insomma. Sì, certo. Cioè vi ha dato la possibilità, volevi ringraziare, spegni un attimo la radio, scusami Vittorino, perché sennò sentiamo un ritorno strano, scusami, sentiamo un ritorno. No, è già spenta la radio, non so, ma sento anche io, non sento tanto bene. Va bene, senti, volevo capire, volevi ringraziare Vespa per la puntata di ieri? Sì, volevo ringraziare Vespa e la Rai. Perché? Beh, perché ripeto, ci ha dato la possibilità di dire le cose come stanno, di dire che tutte quelle cose che hanno scritto su mio nonno... Sono tutte calunnie. Cioè ha dato la possibilità a voi di spiegare il vostro punto di vista dopo le cose che sono... No, il punto di vista, la verità, no il punto di vista. Beh, la verità è controversa, come sai. Cioè, no, la verità non è controversa. La verità è quella che dico io e la verità è questa qui, non è controversa. Però, scusi, ma come trovi questa polemica che è stata fatta dal PD di Roma, da Marino stesso? Marino ha detto addirittura che è stata offesa la città e Vespa dovrebbe chiedere scusa, almeno da quello che leggo. Non ho capito bene. No, questa polemica qui che è stata fatta dall'amministrazione comunale, dal PD contro il programma di Vespa, come la vedi tu? Cioè, questi qua che hanno fatto polemica sulla vostra presenza? Ma cioè... io la vedo, perché dovrebbero fare polemiche? Noi ci hanno invitato, siamo andati e abbiamo detto la verità come sta nei confronti di mio nonno. Sì, no, però loro fanno polemica dicendo che il servizio pubblico non può mettere su una sedia di un programma importante una famiglia, come dire, discussa come quella di Casamonica. Se la sono presa con Vespa, addirittura hanno parlato di vergogna per la città. Si deve vergognare Vespa secondo te o no? Il discorso è non dobbiamo generare la famiglia Casamonica. Ci sono, ripeto, come ho detto anche nel programma, ci sono buone e cattive da tutte le parti. Sì. Se qualche componente della famiglia Casamonica ha sbagliato, è giusto che paghi. Ma d'accordo, ma volevo capire che ne pensavi di questa polemica. Se trovi ridicola, sì, la trovo ridicola perché il dottor Vespa, la ringrazio ancora una volta che ci ha dato la possibilità di dire la verità. No, non lo ringrazio troppo, amico mio. Più lo ringrazia, più lo danneggia, le voglio dire. No, ma a parte le battute, le voglio dire questo, signor Casamonica. Suo padre è quello che è coinvolto. No, per suo nipote, è il nipote della questione. Cioè, suo zio. No, ma la cosa. Per chi ha votato al comune di Roma? Scusi, signor Chiesa. Come? Per chi ha votato lei al comune di Roma? Vota? Non ho capito bene. Per scusi. Chi ha votato al comune lei? Per chi vota di solito? A Marino. Ha votato Marino lei? Sì. Ma come mai? Perché è una brava persona. E ha votato, di solito vota a sinistra lei per il PD? Sì. Lei è un uomo di sinistra? No, non sono un uomo di sinistra, sono un uomo del centro, però mi piace la sinistra. Mi piace la sinistra, ma tutta la sua famiglia è così, più o meno, votate tutti? No, no, io parlo di me stesso. Ognuno vota come vuole, cioè non c'è, sì, il blocco, sì, sì, dei, certo, non c'è il blocco dei voti di Casa Monica. No, no, assolutamente no. Però lei è uno, diciamo, che le piace, le piaceva Marino, le piace ancora Marino? Beh, mi piace Marino, però non vedo queste polemiche per quanto riguarda mio nonno, perché, ripeto... mio nonno non è, cioè sono tutte quelle cose che sono state dette, sì, riguardo mio nonno, sono tutte calunnie. Allora, non era vero che era un boss, non era vero assolutamente, sì, queste cose che dicono. Allora ci torniamo subito, perché voglio dire che Vittorino Casamonica si sente un po' discriminato, perché è un cantante, adesso faremo sentire anche una canzone che ha fatto, si sente un po' discriminato per il suo cognome, cioè vorrebbe partecipare anche a X Factor, così ho letto da qualche parte, vorrebbe insomma entrare nel mondo della musica, e però lui dice il mio cognome è un grande ostacolo. Traffico. Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Tu dammi peperoncino e saprai di questa Allora, questa canzone, che naturalmente non possiamo farvi sentire per intero, è di Vittorino Casamonica. Com'è che fa Vittorino? Suonamelo un po', dai, vogliamo scherzare anche un attimo, dai. Com'è che fa? Dammi il peperoncino e saprai che quel sapore è fatto per noi, perché mi piglia fino qua giù e la mia pace sei tu. Vittorino Casamonica, applauso, applauso. Grazie, col grazie. Cognome che porta, applauso, applauso. Abbiamo fatto cantare Vittorino Casamonica. Io però voglio dire una cosa, perché dici che il tuo cognome Vittorino è una specie di handicap per te, mentre siete accusati la famiglia e alcuni membri della famiglia di avere auto di lusso? Tu con che auto vai in giro? Scusa, io ho una Clio, una Clio del 2004. Una Clio, nel conto in banca quanti soldi hai? Zero. Sì, mo zero, dai, su, zero. Sei un poveraccio, morto di fame sei. Cioè, beh, ero morto di fame, no, per mangiare ce l'ho insomma tutti i giorni, però non sono, come dicono, non sei ricco, ultra milionario, tutte queste cose qua sono tutte cose insomma che non sono vere. Ma veramente tu pensi che il tuo cognome sia un problema per te? Sì, perché ecco, ripeto, ecco, tutte queste cose che sono successe insomma. Cioè volevi partecipare a X Factor, ma è troppo tardi? Sì, spero insomma che spero che parteciperò a qualche altro programma. Cioè, quando tu ti rivolgi a qualche, che ne so, casa discografica, sì, qualche... sì, esatto, che succede? Esatto. Beh, io ecco, se mi rivolgo a qualche casa discografica, ho il problema che magari mi chiamo Casa Monica e mi fanno problemi per questa cosa, mi discriminano perché magari hanno paura, non so, ma e questo è il mio mestiere, è questo che faccio io. Capito, da Parenzo? Bambino, capito, Parenzo? Ho questo sogno nel cassetto e purtroppo ti chiami Casa Monica, ti chiami Casa Monica. Ma sei orgoglioso di chiamarti Casa Monica o no? Beh sì, come stesso sì, perché io non, io sono una persona che... Beh, diciamo che è un nome 24, un po'... se tu vai a vedere, 24. Per esempio, basta guardare Wikipedia, tu sei giovane, 24 anni, lascia perdere le... Cioè, oltre a Wikipedia ci sono le inchieste, eccetera, usura, spaccio, strozzinaggio, un sacco di reati. Ma io questo non voglio prendere le parti, insomma... Cioè esiste il clan Casamonica? Sbagliato. Esiste il clan Casamonica? No, non esiste, non esiste perché... Cioè non è una famiglia mafiosa? No, assolutamente no, perché ognuno di noi ha una sua famiglia e ognuno di noi si guarda gli interessi della propria famiglia, non c'è un clan, non esiste un clan. Non siamo esiste tanti, un clan. È vero, siamo famiglie, è vero, ma ognuno si guarda la propria famiglia. Che vuol dire ognuno si guarda la propria famiglia? Però scusi. Io mi guardo il mio mestiere, poi altri si guardano il loro mestiere. Cioè ognuno si fa i cazzi suoi. La mia famiglia era mio nonno, che purtroppo non c'è più, e mio padre, e io. E suo nonno era la mia famiglia. Tuo nonno era una brava persona? Ma per me sì, era una brava persona. Beh, qualche certo, truffa l'ha fatto, qualche truffa l'ha fatto. Ma non era un criminale come l'hanno descritto i giornali e tutte queste calunnie su di lui. Parenzo? No, io voglio dire questo, la cosa migliore fatta dai Casamonica è questa canzone, mi pare. Ma no, ma non è vero. Allora, guarda, voglio chiedere. Guarda, a Vittorino, che mi sta simpatico in arte liquida, voglio chiedergli altre due cose. Però, fra un quarto d'ora dopo il giornale radio. Vittorino, ti richiamo, due secondi, ti richiamo dopo. Fra un quarto d'ora, giornale radio. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocra. Lasciatemi in pace, chi mi frega niente del futuro a me, Adriana. Ma se Rocky avesse avuto questa voce, il film avrebbe avuto lo stesso successo? Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. Rifacciamola, voce Pino, voce. Andrà bene così. Il segnale orario vi è offerto da... Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. La Zanzara. Cent'anni e poco più, che spettacolo sei tu, la più bella fra le donne, con quell'aria un po' intrigante, quel sapore sulla pelle che ti piglia e ti confonde. Vai Vittorino, Vittorino Casamonica, parti con questa canzone, vai. Ma di te cosa vorrei? In fondo già lo sai, quel calore che ti abbaglia, che ti spacca e ti scompiglia, fatto solo per chi vuole, dentro l'anima al piacere della vita e dei colori e del gusto dei sapori. Rieccoci, buonasera. Vittorino Casamonica, ma nella vita che vuoi fare? Oppure c'è questo marchio di infamia che hai addosso? Che vuoi fare nella vita? Tu che hai 24 anni, hai questo cognome Casamonica, ma tu sei sicuro che sei incensurato? Sì, non è che abbiamo invitato Parenzo, non è che a noi non ce ne importa niente, per carità, abbiamo invitato chiunque qua, mafiosi, contro mafiosi. Assolutamente sono incensurato, assolutamente. Sei incensurato, tutto a posto, eh? Sì, tutto a posto, questo faccio nella vita, canto. Canti. Spero non sia un reato cantare. No, per carità, ma ti voglio chiedere una cosa, io spero che tu avrai grande successo nella vita, naturalmente, ma dimmi la verità, con Vespa, cioè con voi Vespa è stato buono, diciamo la verità. Si è comportato in maniera normale. Cioè è stato buono, non ha incalzato, non è stato... No, è stata una persona cordiale, è stata una persona cordialissima. È stato buono con voi, dai, è stato buono. Cioè non vi ha rotto i coglioni troppo, cioè non va fatto le domande sulla mafia, i boss, eccetera. No, anche se si ha fatto qualche domanda, noi abbiamo risposto la distanza. Ma Renzi ti piace? Scusi. Sì. Ti piace Renzi? Sì. Cioè lo voteresti come Presidente del Consiglio? Sì. Parenzo, dimmi, che vuoi chiedere? No, ma voglio capire, nella sua famiglia, non per farmi proprio i fatti suoi, però è importante, nella sua famiglia, quella più stretta, ci sono persone che stanno in galera in questo momento? Sì. Beh, sì, immagino di sì. Allora, ripeto, non intendo rispondere a queste domande, non mi fa, l'ho detto già alla redazione di non farmi domande opportune, la prego. No, beh, che c'entra, domande opportune, che c'entra? Un momento, questa non è una domanda, cioè tu sei incensurato e tutto, cioè... Io voglio parlare di me stesso, non voglio parlare di... No, ma ho capito, hai parenti in galera o no? Questa è una domanda. No. Non hai parenti diretti? Non voglio parlare di nessun'altra persona, voglio parlare di me stesso. Vabbè, tuo nonno che è morto, pace all'anima sua. Chi votava nella vita? Chi ha sempre votato? È curiosa questa cosa qua. Cioè, per chi parteggia? Guarda, io non voglio, ripeto, lo ridico, non voglio. Vabbè. Non voglio. Già mi ha capito, ma non voglio avere queste domande. Ma no, non voglio avere queste domande, uno fa le domande che vuole, poi uno può anche decidere di non rispondere. Le mie domande, io voglio parlare insomma di questa cosa, che ho discriminazione purtroppo che porto questo cognome. La discriminazione del cognome. Vabbè, Vittori, ti ringrazio, arrivederci, grazie. Ciao, grazie, ciao. I'm a real wild one. Allora, 800240024, andiamo a Palermo. Salvatore, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Mi ascoltate? Sì. Volevo dire questo. Siccome è morto... Sì, però con una voce un po' più... Che è successo? È morto il gatto? Che è successo? È morto il cane, il gatto? Che è successo? Siccome mi vergogno... Hanno congelato il cane, hanno congelato il gatto. No, mi vergogno di essere italiano. Addirittura. Sì. No, no, no. Anche noi ci vergogniamo ogni tanto, ogni tanto proviamo vergogna anche noi. Un però. Pensa un po', un capo mafia. E io mi metterei a Totorrina a fare un funerale. Io da Palermo, io dico Totorrina, se farebbe un funerale del genere, se magari sarebbe stato uno scandalo. No, perché Totorrina Meschino è un cristiano che è in galera, deve subire, eccetera, eccetera. Beh, insomma, ma non è solo un cristiano che è in galera e che deve subire, qualche guarda, piccolo reato l'ha commesso, signorino, o no? Sì, bravo, reato l'ha commesso, lo sta pagando e lo pagherà e lo deve pagare. E allora? Però dimmi una cosa, che fanno fare un funerale, un funerale che io pago pure la trasmissione Rai, devo contribuire a pagare la trasmissione Rai, mi presenta Vespa, questa gente in televisione, per me è una vergogna, io mi vergogno di essere italiano. Scusi Salvatore, da che mondo è mondo, i Casamonica tra l'altro sono stati intervistati, per carità, non è la televisione pubblica, non è Rai 1, sono stati intervistati come in questo mese, non è la televisione pubblica, non è Rai 1, però Sky TG24, lo stesso Parenzo in onda, altre trasmissioni, interviste sui giornali, e nessuno dice né A né B. Ma non mi puoi paragonare signor Vespa, Sky 24 con Rai 1, ma non è vero, ma c'è il canone, c'è la questione del canone, d'accordo. Ma scusa, ma Biagi non intervistava? Biagi intervistava anche i mafiosi. Da che mondo è mondo? I presunti criminali o i mafiosi vengono intervistati, bisogna vedere come uno li intervista. Dopodiché lì non c'era gente compromessa. Fino a prova contraria, quelli intervistati da Vespa non avevano reati commessi, anche ma se avessero. Sto parlando dei reati. Ma qual è la. Perché hai provato vergogna? Dimmi perché. Il rubinetto di come si chiama? Ma che significato ha? Poi sono andato da Lidl. Non ho capito perché. Sì, da Leroy Merlin invece non lo sapeva dire Leroy Merlin, tu stai dicendo noi lo dico no, però Salvatore io capisco, non capisco perché sei, perché cos'è che ti sei vergognato, non ho capito bene come, perché mi sono vergognato, ma di che cosa ti sei vergognato? Ma dalla trasmissione che fate, dai, fare partecipare a sta gente, ma siamo italiani o no? E che vuol dire? Siamo italiani, certo che siamo italiani, allora? Siamo italiani. Beh, siamo italiani, allora siamo fanghi. Allora siamo tutti fanghi, scusa. Fanghi, la traduzione, siamo tutti sporchi, diciamo, no? Questa è la traduzione, bravo, giusto? Bravo, bravo. Siamo tutti bravo. Fanghi. No, non siamo tutti fanghi, infatti. No, non è alla che siamo. Ma sono onesse. Ma cioè, allora tu mi mischi il fango con l'onestà. Ma che fa? Stiamo scherzando. Ma ho capito, ma quella è una trasmissione, è una trasmissione. È la trasmissione, è la trasmissione che ti fa mischiare tutto una gente. Cioè, tu mi intervieni, cioè mi fai venire gente, cioè, zingari, proprio zingari. Perché ti danno fastidio, zingari. Ti danno fastidio di zingari? Non mi danno, io non sono uno che allora? Critica, però. Guarda. Da nulla a essere padroni di Roma, scusami. Vabbè, ma quello è un altro discorso, Vespa. Tu mi dici che è un altro discorso. Fermo là. Si sono impadroniti di Roma. Vabbè, ma quella è un'altra cosa. Si stava discutendo di una nota di Casamonica, del funerale, della polemica sul funerale. Pierluigi da Roma, sempre. Pierluigi. Ciao Cruciani. Dimmi. Io guarda, scoppio quando sento Parenzo, per un motivo molto semplice. Allora, a parte non soltanto Parenzo, ma tutta la stampa, sto botto, no? È perché il funerale è una cosa. Ma le fotografie dei Casamonica a tutte le riunioni del comune di Roma, alle cene che. Quale fotografie? Scusa, io te l'ho capito. Che c'entri Parenzo? Perché sei un giornalista da strapazzo, Parenzo? Scusami, guarda perché che ci stai la foto di Casamonica. Sei un giornalista da strapazzo. Guarda che la famosa foto Minori, non hai la stoffa. La famosa foto di Casamonica. No, ma per Luigi non ho capito che c'entra Parenzo adesso, non ho capito bene. C'entra Parenzo, perché allora Parenzo deve fare mentale. Allora, una volta perché poveri rom e i rom, poi ma adesso fanno un funerale, diventa rom, Caspita, sto funerale. Ma quelli mica sono rom, quelli sono italiani. Ma che rom? Sono, beh, sono rom, sono zingari, allora, sono rom. Senti un po', sono originari nell'Abruzzo, ma quali rom? Ma non sono rom in Casamonica. Voi Casamonica non sono rom. A parte che mai sono finti e non sono rom. Fammi parlare. No, ma non ho capito quale sarebbe la contraddizione. Perché tu dici, Parenzo dice bisogna proteggere i rom, eccetera, eccetera, e poi contesta il funerale. E poi contesta il funerale. Ho capito, fermo lì, fermo. Perché non contesti quelle foto? Perché non hai contestato la presenza di Casa Monica alle scene ufficiali del Comune di Roma? Ma veramente la contestate? Veramente la contestate? Fermo lì. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Hey Joe, get up and go. Wouldn't like to tell you twice. C'è una foresta che cresce, che non fa rumore. Voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi. Ragazzi, a grande richiesta, tipi da zanzara, tipi da zanzara con un personaggio che ieri è esploso dappertutto. Tipi da zanzara. Antonietta da Milano, probabilmente vergine, ha oltre 50 anni. Antonietta. Allora, carissimo signor Cruciani, dottor Cruciani, ma lei ha una figlia, sicuramente ha una figlia, ma un domani, sì, se sua figlia le dicesse, papà, sì, voglio arrivare al matrimonio come Dio comanda. Sì, che vuol dire come Dio comanda? Dio comanda di arrivare al matrimonio puri. Sì, puri, sì. Dio lo comanda. Penserei che penserei... penso che anche Parenzo, essendo ebreo, dovrebbe ricordarsi che certi valori sono condivisibili, non so. No, va bene, certo, ma infatti. E allora cosa c'è di male a pensare che ci siano ancora delle persone che vogliono arrivare casti al matrimonio? Cosa c'è di male? Te lo perché dico li prende in giro? No. Da notare la risposta di Parenzo, certo, ma infatti Dio lo comanda, Dio lo comanda di arrivare al matrimonio, al matrimonio illibato. Invece se la sua figlia le dicesse, sai, sono andata con questo, con quello, con quell'altro, per lei è normale. Ottimo, ma certo, assolutamente. Beh, io no, diciamo. Vabbè, ma tu sei bigotto, sei... Però, quello che non capisco voi, sì, voi in questo scempio, voi due, in questo scempio che fate, in questa trasmissione che spero ci chiuda presto, perché dovete essere... Ah, ride, perché avete i soldi, ma i soldi non sono tutto nella vita. Ma lei chi l'ha mandata? Gesù Cristo qua, Dio in persona, no, chi l'ha mandata? No, le sto solamente dicendo che se voi pensate che la vostra linea è quella giusta... Ma quale linea? Dovreste, non c'è linea qui. Dovreste anche avere il coraggio di ammettere che anche altre persone sono di più di quanto voi pensate. Ma infatti io... in un'altra linea giusta. Ma io infatti... Ma lei è arrivata illibata al matrimonio? Io non ci sono ancora arrivata, però sono fatti miei. Però quanti anni ha, signora? Scusi. Non si preoccupi. No, vabbè, ma sta chiamando lei qui, no, scusi. Mi sta parlando di mia figlia, no. Adesso non posso chiedere, no, quanti anni ha. Io le ho detto, io le ho solo semplicemente elevato il ruolo di sua figlia, perché le ho detto, se lei ha una figlia... appunto, ha parlato e di mia figlia. Bene, e le vuole bene, e se le fa una scelta di questo genere, deve avere il coraggio di rispettarla. Lei quanti anni ha, innanzitutto, signora? Non si preoccupi, Antonio. Ascolta, sono i miei anni, sono una persona matura. Non dirmi, cara Antonietta, ti do del tu, non dirmi che sei vergine. E vabbè, se anche lo fossi, a lei che cosa le interessa? No, non me lo puoi dire una cosa del genere. Devo andare dal dottore? A quanti, dipende che a quanti anni hai. Siccome non credo che tu abbia. Devo andare dal dottore? Se hai più di 40 anni, a parte anche meno, ma comunque mettiamo che tu hai più di 40 anni e credo che tu abbia più di 40 anni. Se, te, ma se, hai più, caso che io se tu hai più di 40 anni e sei vergine, no, beh, l'accento liberamente ha ragione. Amici miei, beh, ma scelto lei, poverina, a che voi che cosa ve ne frega, ma di questo discorso? Io ho chiamato perché ho detto che io sono d'accordo al fatto che uno possa anche preservare la sua integrità fisica e donarla a chi vuole lei. Tipi da zanzara. Allora andiamo subito a Roma, Dario, vai! Ciao! Ma sì, comunque Santonietta c'ha la voce sexy, io non lo so, però secondo me... Ah, tu dici la voce sexy? No, ma non ce la racconta bene, c'è qualcosa di... No, no, comunque, era tutto vero, tutto originale, tutto vai. Tutto vero, dici? Sì, comunque, sì. Allora... Vabbè, non è che la voce è sexy adesso, che c'entra? Dai. No, perché è un po'... a parte non si capisce bene se è una giovane vecchia o una vecchia giovane. Io quello è vero, non si capisce bene, però abbiamo accertato che ha oltre 50 anni, ha 52 anni se non sbaglio. Ok, mi dispiace. Vabbè. Allora, comunque volevo dire, in Italia una cosa che funziona bene è il processo alle intenzioni. Ieri sera abbiamo visto un Vespa quasi in difficoltà, 1-0 ieri sera per Casamonica. Ma su che cosa tu hai difficoltà questo... su che? Ma perché quando parlava questi rispondevano al tono e ovviamente le cose che non le vogliono dire comunque non le dicono, cioè Vespa non è il magistrato, non è il giudice. Là subito, ma tuo zio, tuo nonno, a Ferrari, 17 a 18 anni. Sì, ma non, ha, non mi sembra che abbia fatto un processo, però, Vespa. Cioè, okay. Non mi, ha fatto tutto tranne che un processo. Ogni tanto contestava, sì, che ci pigliate in giro, sì, però, quando avete messo il cartello padroni di Roma. Ma è chiaro che vengono lì quelli, quelli incensurati. Tu inviti quelli, anche, perché quelli ma che non sono. Non lo sono, ma tu non lo sai neanche io, neanche te se sono incensurati. Chi l'ha detto? Ma quelli che erano lì erano sicuramente incensurati. Okay, non c'è dubbio. I parenti di questi qua, come ha detto prima Parenzo a Vittorino Casamonica, i parenti molti sono accusati di reati anche gravi. Ma va bene, ma la cosa si sta facendo sempre più grande, nel senso, no, ma la ridicolaggine, ma non c'è dubbio, hai ragione tu. La questione rimane, parlando di un cazzo di funerale, a me fa pena. No, ma non c'è dubbio. Quello non è il funerale. Il faccione sulla chiesa. Hanno messo il faccione vestito da papa, poteva essere vestito. No, ma guarda che lei è simpatico, eh. Ma cioè lei è proprio simpatico perché o non capisce, oppure se capisce è ancora più grave. Mi hai dato ancora dell'idiota patentato. Ma no. Ma ha ragione, sta dicendo che parlare del funerale per settimane e settimane è ridicolo. Tu dici non si parla del funerale, ma del fatto che questi qua hanno voluto fare una prova di forza nei confronti di Roma. Di che cosa? Ma quale prova di forza? Ma come guadagni? Ma non è vero, ma quale prova di forza? Ma quale prova? Precedente o due sere prima, date il tempo. Stessa cosa, rompevano il cazzo a questo, no, perché l'elicottero, sti elicottero. Beh, quello c'è un problema, no? Si è pagato, ma un problema è l'elicottero, ma che problema è l'elicottero? Ma ce ne fossero, cento di funerali, no, con gli elicotteri e con i petali rosa. Le violazioni, chi se ne frega? Hanno pagato qua. Si può fare sta cosa con l'elicottero? Ma ancora con sta cosa delle violazioni dell'elicottero? Ma dai, okay, ma come ancora? Va bene, se qualcuno ha fatto delle violazioni dello spazio aereo, ma come pagherà. Ma qualcuno, ma non è solo violazioni dello spazio, ma adesso fate tanto quello. Ma non ho capito, che stai dicendo tu? I terroristi arrivano con i profughi, rompete le scatole con questi profughi. Comunque li chiamate presto Antonietta e andate avanti. No, ma guarda, questo furbone Antonietta del funerale, ragazzi. Questo mezzo furbone qui che chiama. Ma che poverino, capisce una cosa, poi ne altre due. Ma non ho capito, capisce. Tu veramente pensi che il problema sia la concessione dello spazio aereo a quell'elicottero durante il funerale? Anche tutto l'insieme di quella roba là, tutto l'insieme, quello dell'elicottero è quella più manifesta, infatti hanno ritirato la licenza a quello che ha guidato l'elicottero. La licenza l'hanno ritirata al pilota perché ha fatto delle manovre, delle cose, ma non c'è niente. Non autorizzate, ma ma tu non puoi buttare dei fiori o dei dollari sopra una città. Vabbè, d'accordo, non può. Ma fai quello che non può buttare. Non può buttare questo. Vogliamo sentire anche Ciao. Maurizio Brescia, vai. Maurizio. Ciao. Buonasera a tutti, è la prima volta che chiamo. Ciao Bruce. Ciao Parenzo. Ciao, wow, senti, mi avete un po' spiazzato perché onestamente intanto abbiamo pagato noi la marchettata che ha fatto il grande Vespa e poi mi stupisci tu Cruce perché mi piace tantissimo, però che stasera sei un po' in controtendenza. No, ma io difendo Vespa a spada tratta su questo, cioè ci ha dato un grande spaccato dalla famiglia Casamonica. Ma di che stiamo parlando? Mica è un processo quello là. Ha chiamato in studio Casamonica, ma chi se ne frega? E allora qual è il problema? Sarà un problema per la città di Roma offesa, come dice Marino. Dai, su, ma si dicono delle stronzate pazzesche. Ma scusa, ma per caso il gettone l'hai preso tu oggi? Ma sei normale oggi? Come il gettone? Ma perché? Non ho capito. Perché devo attaccare Vespa per forza? Hai rotto le palle con i zigari per 3 mesi. E allora? Adesso addirittura dici alla persona che aveva chiamato prima perché c'è qualcosa contro gli zingari. Ma tu sei perfettamente in contraddizione con te stesso. Ma che c'entra? Ma non ti ho capito. Rendi conto chi sono i Casamonica? Guarda, allora, cioè, i Casamonica so benissimo chi sono, so benissimo allora, ci sono tutti gli affari, che... tutti gli affari che gestisce il cosiddetto. Ma ci sono delle persone che sono costrette a vivere segregate in casa e sono stati minacciati i loro figli di morte, i loro cugini. Ma che c'entra quello? Ho capito, ma io faccio giornalista e chiamo il signor Vittorino Casamò. Anche con la Parietti stai perdendo un po' di punti. Prima eravate culo e camicia, cioè non ti riesco a capire. Non ho capito, non ho capito, Maurizio. Qual è l'accusa? Non ho capito qual è l'accusa. Tutti quelli che non la pensano come lui sono tutti deficienti, anzi no, lei li chiama idioti, lui è la mamma degli idioti, ma da non ho capito bene qual è l'accusa, Maurizio, l'accusa qual è? Un pizzichino di sale in zucca in più, cioè a volte veramente va in piena contraddizione, più di cazzi di misure, cose così... Cioè, Maurizio, non ho capito qual è l'accusa. Che ti dica quanto grosso il pingone? Maurizio, non mi interessa. Se voglio, te lo chiedo. Sicuramente è più grosso del tuo, fidati. Una delle donne con cui ciulo. Passamela un attimo, dai. Perché stasera veramente mi hai fatto incazzare, Cruce. Ma non ho capito perché. Spiegami. Stasera per me sei fuori di testa. Ma perché? Non ho capito. Perché non ho attaccato Vespa. Questa è sbasbroccata. Questa ha fumato qualcosa. Devo solo confermare, ma non riesco a sentire nulla. Scusa, come ti chiami tu? Come mezza sorda? Prego? Maurizio, chi è questa gentile signorina? Scusami. Questa è una delle... Io ho cinque figlie, una delle madri di tre mie figlie non sono musulmano. Questa è una metafora, ovviamente. Vuoi commentare tu questo signore o no? Parenzo rosso come i tori, no? No, magari, ma questo ti piace molto, maestro, giusto, Parenzo? Questo ti piace molto, no? Perché sto dicendo cose che non sono giuste, no? Ho detto che questo mi piace di lei, ha detto che ha tre mogli. Ma sempre anche Radio Padania? Ma lei capisce, Radio Padania. Io ho sentito Semivarin quest'estate parlare con Cruciani civilmente, come due persone civili. No, ma scusi un attimo. Lascialo parlare, ha sbroccato. E abbiamo pieni i coglioni di queste cose. Sai come ti chiamano nel mio quartiere in Piazzale Corvetto? Lo vuoi sapere? Lo posso dire, Cruciani. Mi assicuri che non mi fai denunciare? No, non ti faccio denunciare. Lo posso dire. Come chiamano chi? Parenzo? Come chiamano Parenzo? Come lo chiamano a Piazzale Corvetto? Il Netanyahu dell'etere. Il Netanyahu, adesso non sono così sofisticati da quelle parti. Il Netanyahu dell'etere. Insomma, non è male, eh? Fermo lì. Parenzo è contro il buon senso. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Allora Maurizio, mi sembra che tu però hai preso qualche sostanza qui, Maurizio. No, guarda, io ne ho abbastanza del mio male, ho una malattia degenerativa, purtroppo mi ha morso un ragno e sono cazzi miei, vivo in un letto. Sì, ok? Ti ha morso un ragno, ti ha morto. Prendo delle medicine che sono state prescritte da persone con i controcazzi, quindi non mi rompere le palle. Aspetta Maurizio, che abbiamo una notizia importante da dare. Fermo lì. Sì, Ricci, okay. vieni qua, Ricci, Dario Ricci, dello sport qua. È fondamentale questa notizia. Scusate, vai. L'incursione alla Zanzara, ma abbiamo battuto 89-82 dopo un supplementare la Germania, europei di basket, grande Italia, grande Gallinari, grande Bellinelli, un supplementare che guarda, dovresti mandare in replica da qua alla fine. Dovevo mandare la replica per vedere la partita. Hai ragione tu. Abbiamo vinto e siamo praticamente agli ottavi di finale. Siamo agli ottavi di finale, domani ci giochiamo anche il primo posto contro la Serbia. Grande Italia. Grazie a Dario Ricci che ci ha dato questa notizia fantastica dell'Italia. Maurizio, allora io non ho capito bene che cosa hai ingerito questa sera. Abbiamo vinto. Abbiamo spaccato la Spagna. Grandi, Maurizio, ragazzi. Maurizio, io voglio capire una cosa. Passami la donna che è accanto a te, innanzitutto. Passami la donna, che è tua moglie. La donna che è accanto a me, se potesse, ti bastonerebbe sul pingone. Così la palla ti viene ancora più gonfia. È quella che io non ho capito una cosa. Primo, che cosa mi rimproveri oggi? Primo, poi me lo spieghi bene quando la droga fa meno effetto. Poi? Fai anche sentire quella cazzo di canzoni del peperoncino di qua. Ma per favore, porca miseria, sono stato anch'io un DJ. Conosco la gente che conosci pure. Tu, Linus, Angelo De Roberti, siamo partiti insieme nelle radio. Però poi Maurizio, una marchetta del genere. Ma quale marchetta, amico mio? Questo qua è un Casamonica che va intervistato. Io non capisco una cosa, Maurizio. Adesso, perché con chi sei? In compagnia di chi? sono, ti ho detto, in compagnia di una delle tre donne delle, dalla quale ha avuto... Ma è una moglie, una compagna, figli. Cos'è? Praticamente la mia compagna che le ha dato tre figlie bellissime e quattro nipoti stupendi, i miei figli, i miei due figli e il mio figlio. Okay? Ma perché me la volevi passare prima? Per semplicemente... No, tu a chiedermelo. No, tu mi hai detto, te la passo, te la passo così, così lei ci dice... Ma è molto se timida. Ce l'ho lungo, ce l'ho picco. Riproviamo, dai, Adri, no, è scappata, queste donne qua. Comunque, niente, io volevo... Non ho capito che cosa mi rimproveri, che cosa mi rimproveri, non ho capito. No, che oggi appunto c'è anche con lì... Cioè, che ho fatto la marchetta di Casa Monica, dici? Effettivamente, no, ma non lo dico solamente io, siamo in tanti, Ma in tanti e poi, chi? Ti ripeto, un giornalista come te, che io ritengo un giornalista molto atipico, tu sei un incrocio tra un DJ... Un Howard Stern, come appunto ogni tanto fai sentire, ho visto anch'io per le parti, so chi è Howard Stern, perché ti ripeto, ho fatto la radio 20 anni. Allora? E poi hai lì come collaboratore praticamente un garofano rosso tinto di bianco. Garofano rosso tinto di bianco, una persona che non ha sesso, cioè le cose, chi va contro di lui praticamente va contro un muro, cioè non riesco a capirlo. Parenzo, rispondi. No, scusami un attimo, ragioniamo per piccoli passi, perché altrimenti non ti seguo. Primo, interessantissima la storia di tutte queste mogli e tutti questi figli. Questo devo dire è una delle cose più interessanti che tu hai detto, cioè ho capito bene, tu hai tre mogli. Io riunisco le mie famiglie, Parenzo, io le riunisco, siamo tutti in armonia. No, ma è bellissimo, questo lo dico senza ironia, questa è una storia molto bella, cioè, tu hai tre mogli e cinque figli, giusto? Sì, esatto, tre compagne. Tre compagne, no, va bene, mogli, dico solo, compagne, tre compagne e cinque, queste tre compagne, ma no, d'accordo, hai ragione, ma aspetta un attimo, non ti sto attaccando, oddio mio. Fermati un secondo, scusa. No, ma mi interessa davvero. Che soffochi gli altri quando devo parlare, ti lascio allora, parlare. Allora, le tre donne. Fermati un attimo, porca puttana. Ho fatto 20 anni, quindi cazzo i tempi ma della non radio, mi fare arrabbiare, sono pacifico. Ma arrabbiati pure, non me ne frega un cazzo, non sono mica l'errore che deve far sentire te intelligente. Va bene, ma le tre voglio ma sapere di questo. Di essere. Ma visto che hai telefonato. Ma ce l'hai un callo sulle mani? Ce l'hai un callo ma sulle mani? Ma puoi calmare un attimo, ma sei impazzito. Ma per favore, ma... Voglio sapere, le tre donne... Ma ciulata oltre quelle tre... mamma mia. Il senso del genitore, sei pronto per fare la storia gender? Oh mamma mia. Hai già la cosa in mano? Scusami un attimo. Le tre donne con cui stai, le tre donne che ti hanno dato non è che sto contemporaneamente con tre donne, visto che adesso vivo a letto, le vedo regolarmente con i miei figli. No, questo volevo capire, perché mi interessava capire se invece con queste tre donne avevi comunque mantenuto una relazione speciale. Ma che te frega te? Ma come, questo telefono rompe i coglioni sulla mia vita, critica e non gli parla della sua vita e non gli posso chiedere. Vabbè, ma che domanda è? Le misure del mio cielo te le dico. Ari, dai, ma quella è l'unica cosa che non mi quella libidine. È una bella quella, guarda, è l'unica cosa. Ragazzi, non vi sovrapponete. Allora, Maurizio sta dicendo: le misure sono l'unica cosa che non mi interessa, perché ci hanno fatto una puntata a Chi l'ha visto, quindi non mi interessa. Capito? Cazzo che battutola, ma c'era non era battuta, è un dramma. C'era anche tua mamma a quella trasmissione? È un dramma, Ragazzi, non esageriamo, dai. Maurizio, comunque smettetela anche di attaccare cazzo Sammy Varin, che è una brava persona. A proposito, Maurizio, ciao, ti saluto. Sì, ciao, Radio Padania. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e via. Vai Parenzo, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda Casa Monica. Ma che c'entra Casa Monica adesso? Beh, oggi è brutta Casa Monica. Allora sentiamo Varin contro Morandi. Tiranno di accecarti. Vai vedere. Cioè, a casa di Morandi sarà pieno di negretti. Siete contenti? Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. I negri li prendiamo noi in Italia, tranquillo. Cioè, non è che rimangono in giro, eccetera. No. I negri già ne abbiamo a migliaia, al Cara di Mineo e in tante altre zone, anche qui al nord. Ma i negri li prendiamo noi. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. A ascoltatori da Radio Padania. Tutti questi migranti, ci saranno tanti bambini freschi lì in parrocchia, saranno contenti, no, signore. Non farmici pensare, guarda, non farmici pensare che faremo la mattinata gender, un sì, mattino di questi. Sai che se uno ha bisogno, sono a bisogno, dico beh, si accomodi pure nel cassonetto delle immondizie, metterò il numero civico nel cassonetto. Forte la tua voce. Beh, bravo questo qua, eh. Guida il popolo. No, no, ascoltatori, ascoltatori da Radio Padania Libera. Hai sentito l'infermiere che ha detto che c'erano già su 10, c'erano 3 casi di scabbia e cosa? Cioè, ci andiamo anche a malare, andiamo, infettiamo i nostri figli, la nostra gente con questa gente. Ieri sera sentivo ancora la ripresa 0,1%. Ma ci prendono proprio per il culo, ma guarda, ma dove cazzo la vedono sta ripresa? Ma qui ci vogliono far uccidere tutti veramente. Lorenzo, che facciamo? Chiudiamo? Ma dovrebbe essere già chiusa veramente quella radio. Cioè non dovevano trasmettere l'ultima volta gennaio-agosto a luglio. Ma perché adesso devi augurare a questi qua di chiudere? No, dai. No, io sto chiedendo. No, no, tu ti sei augurato più volte che Radio Padana chiudesse. Che Radio Padana chiudesse i battenti perché la chiami Radio Odio. Adesso non la chiami più Radio Odio? Ma come no? Ma io ma io che ne so, non la chiami più Radio Odio, non va più bene. Ieri doveva essere chiusa e mandati in un campo di rieducazione i loro adorabili conduttori. Ma cioè il direttore di Radio Padana, che peraltro tu invidi ogni tanto in televisione. Spesso, dovrebbe essere, anche se in televisione Morelli fa il moderato, tu dici fa il moderato, sembra quasi Fanfani. Cioè in realtà uno lo sta al mare e dice no Parenzo non dire così dai, no, ma in fondo i migranti guardava velocità la zanzara. Oh make me over, I'm all I wanna be. Questa radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Questo era un romagnolo piuttosto vivace che non chiama più, eh? Questo romagnolo che vuole la chiusura di questa trasmissione, insieme a uno scrittore abbastanza noto che si chiama Domenico Cacopardo, signor Domenico Cacopardo. Su Wikipedia ho letto, signor Domenico Cacopardo, oltre a scrittore, c'è scritto anche conduttore radiofonico, oltre a scrittore, saggista, eccetera. Costui, che non ho mai avuto il piacere di conoscere in vita mia, ma questo non è importante, fa anche il critico televisivo, comunque si diletta a scrivere di televisione. In un articolo scritto per Italia Oggi sostiene che tutti i talk show sostanzialmente si basano sul travisamento, la disinformazione, ma chi se ne frega di quello che scrive dei talk show. Scrive però della Zanzara e scrive in questo modo: la Zanzara di Radio 24, che è probabile, non viene ascoltata né dai dirigenti dell'associazione degli industriali, cioè Confindustria, né, e questo è peggio, dal direttore della rete. Signor Napoletano, aggiungo io. Una persona è il direttore che dialoga con filosofi e teologi. Beh, questo non mi risulta, comunque dialoga con filosofi e teologi. Sì, può darsi anche questo, sì. E che non può immaginare che sulla sua radio vada in onda quasi tutti i giorni una trasmissione dedicata al turpiloquio e alla circonvenzione di incapaci, mediante la presentazione di imitatori per beffarsi dei malcapitati. Che scoperta che ha fatto. Usiamo degli, in realtà usiamo degli imitatori. Usiamo degli imitatori. No, una cosa è vera, cioè che il direttore Napoletano, io lo dico al 100%, dialoga con filosofi e teologi, dici. Sicuramente non dialoga con Coso Davare, come si chiama? Vabbè, con Donato Davare. Ma quello chi se ne frega. Dialoga con Mauro Damasio. È più facile, verosimilmente, io questo mi che dialoghi con filosofi e teologi. Vabbè. Esatto, questo allora, mi permetto conoscendolo di aggiunge di il professor Cacopardo. Vabbè, ma ognuno scrive quel che ma certo, no, aspetta però, aspetta, fermo. Ognuno, scrive, letto, ognuno scrive quello che vuole, ma se qualcuno si augura la chiusura di questa trasmissione facendo appello agli industriali, io lo mando serenamente a fare in culo. Allora, se i dirigenti e il mega direttore ascoltassero, a parte che ascoltano benissimo, difficilmente permetterebbero, più che il ruolo che si era conquistata Radio 24, cioè, qua se tratto scrive pure male, cioè, insomma, non permetterebbero che il ruolo che si era conquistato Radio 24 sia gettato alle ortiche da due giulivi, che cazzo sia, da due goliardi malamente cresciuti. Cioè, noi saremmo due goliardi malamente cresciuti. parte che malamente cresciuto lo dice a sua sorella, il signor Cacopardo. Malamente cresciuto lo dice a sua sorella, a sua moglie, ai suoi figli, eccetera. Malamente cresciuto lo dice a qualcun altro, primo. Secondo, non si ricordano, siccome viene presentato anche come conduttore radiofonico, non si ricordano del signor Cacopardo, no, Mirabilie questo. Da questo punto di vista. E no. Dunque, se qualcosa è stato chiuso, non è questa trasmissione, bensì le sue sconosciute trasmissioni radiofoniche, e la chiudo qui. Allora, ieri abbiamo conosciuto, grazie alle schegge impazzite, alle nostre schegge impazzite, che si sono finte turiste di Auletta, abbiamo conosciuto il sindaco di Auletta, il quale si deve difendere in realtà da che cosa? Dal fatto che è stato scoperto che forse il 30% delle donne di Auletta è presente su un sito di tradimenti, insomma ci sarebbero un 30% di donne fedigrafe, di donne traditrici ad Auletta, piccolo paese in provincia di Salerno. Questo è incazzato come una biscia e ha detto no, sono tutte illibate fino al matrimonio qui. Io l'ho letto il mattino, scrive, i record di Auletta, lei, 3 donne su 10. Non ho capito, esatto. Io sono un turista, sto pensando di venire ad Auletta nel prossimo fine settimana. Il mattino scrive 3 donne su 10 iscritte al sito Hard. Io la capisco con tutta. Se lei mi capisce, Auletta. Io voglio venire ad Auletta, spero di trovare un sacco di maialone, poi lei invece mi dice non è vero, quindi. Quindi allora non venga. È meglio non venga, che non venga. Perché sicuramente sarà deluso per questo. Allora mi dicono che si dice Cacopardo e non Cacopardo, benissimo, Cacopardo, lo so, non sono così acculturato come il professor Cacopardo. E poi com'è che ho detto fedigrafe? Invece fedifraghe. E vabbè, dai, è uguale. Non siamo professori come Cacopardo, siamo uomini imperfetti in tutti i sensi. Hai sbagliato l'accento ancora. Ah, Cacopardo, sì, hai ragione, Cacopardo. Il sindaco di Auletta, sentite. Proviamo a chiamare, va. Pronto? Sono Cruciani, Radio 24, salve, c'è anche Parenzo, buonasera. Salve sindaco, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Senta sindaco, allora come giudica queste notizie che sono uscite fuori da questo sito per cui il 30% di donne del suo paese sarebbero iscritte a un sito di tradimenti, chiamiamolo così? Lei può pensare che il 30% fu diversamente come dice la Maria Carmela? Chi è Maria Carmela? Penso Maria Carmela, l'ha detta Barbara. Ah, Barbara D'Urso. Perché là il suo nome di battesimo è Maria Carmela, quindi io come uomo del sud preferisco chiamarla Maria Carmela. Ah, si rivolge alla D'Urso. Ma la D'Urso come la giudica lei per quello che ha mandato? La D'Urso offende prima lei come donna e poi chi l'ascolta. E perché? Assolutamente. E che ha fatto di strano? Scusi, ha raccontato una storia. Ha raccontato, cioè le storie possono essere raccontate, assolutamente sì, e deve essere raccontate nel verso giusto. E cioè, la nostra cittadina è bella ed è vergine per le sue estese piantagioni di ulivi secolari che producono olio extravergine di oliva, è bella per il suo fagiolo, ma è ancora più bella perché produciamo carciofo bianco, il carciofo bianco, quello che si può mangiare, ma crudo, che sicuramente molto, sicuramente è vero. No, scusa, perdonate, mi stavo che un attimino allungando. È anche giusto, fatemelo dire, qualche attenzione della mia cittadina. Certo, sindaco, perché, scusi un attimo, ma le donne come sono nella sua città? Anche se fossero iscritte a questo sito non ci sarebbe niente di male. Innanzitutto io penso che della mia cittadina non penso che ci siano degli iscritti, però comunque ci siano, assolutamente, non è che contestiamo che ci siano degli iscritti a questo sito, noi contestiamo assolutamente che il 37% dei miei concittadini possano essere iscritti a un sito del genere. Scusi, lei ha detto che la maggior parte, tutti i ragazzi e le ragazze della sua cittadina quella era una telefonata privata. Sicuramente ci sono tantissimi ragazzi che arrivano al matrimonio Sì, come l'ha fatto la mamma. Ma come fa a sapere? Lei se vuole riferirsi alla zanzara, è cascato male. Se vuole continuare e parlare di un'attività importante, cioè, e quindi vogliamo ancora parlare della discussione, io sono pronto a discutere. No, però se sindaco, lei vuole sindaco, continuare no. a discutere sua attività, perché io, come ho spiegato, perché un turista sì. deve venire da Auletta, io così ho continuato anche con la zanzara, che non sapevo assolutamente, pensavo che dall'altra parte c'era l'emittenza della zanzara, quindi ma pensavo che c'era un oppure qualcuno che voleva sfottere, e io stavo dicendo e spiegavo il sì. turista che per venire da Auletta sicuramente non era quella l'attività, ma questo l'ho capito, altre attività importanti tra quelle più importanti sono le grotte di Vertosa Auletta. Vabbè, l'abbiamo capito. Che ospitiamo 200.000 visitatori. Vabbè, questo è l'abbiamo poi abbiamo l'Orex Vergine d'Oliva, abbiamo le vergini, abbiamo le vergini evidentemente. Abbiamo l'olio extra vergine. Ma no, ma anche le vergini abbiamo anche l'olio extra vergine d'oliva. Ma sicuramente come in tutto il mondo ci sono le vergini ad Auletta e ci sono le vergini in tutto il mondo, ma assolutamente. Io ho una figlia di 18 anni. Lei? E penso idem, la stessa cosa. Lei ha una figlia di 18 così anni? Così come pensi che ho una figlia di 18 anni, così come una figlia di 14 anni. Ma lei vuole che arrivino al matrimonio illibata? Lei vuole che sua figlia arrivi al matrimonio? Guardi, io come guardi, mia figlia sicuramente si autodetermina. Appunto, quindi nelle sue prerogative sceglie tutte le attività che deve fare. Appunto. Io sono convinto però che mia moglie, che mia figlia a tutti, io penso che arriverà in queste condizioni. Pensa che arriverà in queste condizioni. È un auspicio. Non può essere anche un auspicio. Vabbè, lei preferisce. Non preferisco. Io penso. Qual è il ruolo della suocera? Non ho capito il ruolo della suocera, qual è nella suocera. Vuole continuare di nuovo a continuare. Qui io ho detto mettiamoci il punto. Quindi quelli delle zanzare, della zanzara, non l'hanno capito. Penso che siamo noi. Lo deve ricevere anche lei il messaggio. Non insista. No, ma glielo dico io a quelli della zanzara, non si preoccupi, glielo dico io, li conosco quei due. Benissimo. Li conosco, sono due stronzi. Io alla fine. Non sapevo che della zanzara, però. Sono due stronzi, sì. Però quei fedendoni, non so se siamo in diretta, però quei fedendoni, sì. quei fedendoni. Ma sono due stronzi. Non mi permetto mai di dirlo. Due fedendoni però. No, due fedendoni per dire affettosamente. Certo. Io parlo affettosamente. Certo, Parenzo, che vuoi dire al sindaco? Non ho capito, ma perché sono stupido io, ma non ho capito. Come fa a fare queste rilevazioni sulla sessualità dei suoi concittadini? Esatto. Allora io non ho fatto nessuna sottolineatura. Come fa a sapere che sono illibati? In una telefonata privata ho detto qualcosa. Vabbè, comunque ha detto una telefonata privata. Vabbè. Non pensavo assolutamente che dalla parte c'erano le zanzare, la zanzara. Quindi assolutamente lei deve insistere su questo. Vabbè, sindaco, la saluto. Grazie. Buona giornata a lei. Arrivederci, lei. Sempre numero 1, viva la zanzara. Grazie, viva la zanzara e viva voi e viva Auletta. Viva Auletta, ciao. È una cosa indegna la sua trasmissione. La zanzara. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora ragazzi, dopo il sindaco di Auletta, numero 1 assoluto, idolo assoluto, non pensava nemmeno che fossimo noi, Parenzo, pensava a Zanzara, no, a Zanzara. Hanno fatto una telefonata privata alla Zanzara, glielo dico io alla Zanzara. Ma è completamente confuso questo sindaco. Confuso. Mario da Roma, dai, Mario. Mi sembrava totalmente andato. Ma un po' confuso. Ma non è affatto andato. Se devi dire delle banalità come confuso, non c'entra nulla. Mario, dai. Era... Ma non lo so, ma è quello che è. Non è affatto confuso, è proprio così. Cioè, fosse confuso sarebbe meglio. Ma con chi pensava di ma parlare? Non è confuso, ma non lo so. Pensava di parlare con due della radio, lui che gliene frega. Ma che radio quindi è confuso. Ma non è confuso, dai, su, Mario, è lui, è così. Mario, vai. Eccomi, buonasera. Io ho due problemi. Uno è che sono lo zanzaromane, e vabbè. Il secondo sì. è che sono stato una vittima di quel cantautore che è venuto prima, peccato che se n'è andato. Vittorino, che ha fatto? Che t'ha fatto? Niente, io essendo un musicista professionista, anche abbastanza affermato, quindi non posso dire manco qualcosa, perché questa gente è pericolosa. E io ho fatto un lavoro per questa gente, compreso la buonanima del nonno, del papa, quindi mi hanno fatto lavorare un sacco e io all'inizio non sapevo chi fossero. Cioè, non ho capito, tu hai lavorato come cantante, come compositore? No, io sono produttore, gli ho realizzato un lavoro, un disco bello lungo. A questo Vittorino? O al nonno? A chi? Il Vittorino è il cantante, sì. il cantautore, io gli ho realizzato il disco, avevo la mia postazione dove realizzarlo e alla fine non mi hanno pagato, mi hanno anche spaventato, insomma. Cioè, ti hanno minacciato? Minacciato no, perché io ho detto vabbè, non regalo che gli ho fatto, arrivederci, perché conosco come fare. Ah, non ho capito, spiegami un attimo, tu sei un produttore, giusto? Sì. Ecco, questo è il cantautore che vuole diventare famoso, vuole andare a X Factor, eccetera. Cioè, allora, tu sei un produttore, hai lavorato per i Casamonica, Vittorino, e per il con nonno, esatto. In qualità di cosa hai lavorato, scusa? Io ho realizzato il disco, quindi ho fatto l'arrangiamento, ho suonato gli strumenti, insomma, ho chiamato i musicisti, ho tenuto impegnato uno studio per 2 mesi. Sì. Questa gente, quindi non mi hanno dato un piccolo anticipo all'inizio per farmi contento. E perché non ti hanno pagato? Con che motivazione? Motivazione che adesso non c'è soldi, poi vieni a casa mia e te li do. Quando fanno così, tu vai a casa loro e ti gonfiano le botte. Vabbè, perché non ho capito, non sei andato a casa a farti pagare? Non ci sono andato, perché so che tu vai là e ti gonfiano le botte, perché c'è un sacco di gente che ha fatto questo. Sono andato lì e li hanno gonfiati, i miei colleghi, quindi so benissimo che è così. Quindi sono stato vittima di queste persone, non sapevo chi fossero, poi alla fine dopo l'ho saputo molto presto che sono presentati, però sono rimasto incastrato da queste persone. Non hai provato a farti ridare i soldi, non ho capito, in qualche modo, no? Denuncia, cosa? Uno lo denuncia in un paese. Scusa, in un paese normale, in un paese normale, adesso poi mi racconti quest'altra cosa. In un paese normale, uno va dai carabinieri in tribunale, non so dove, a dire: guardate, ho fatto un lavoro per questi signori, questi non mi vogliono pagare. Denuncia. Invece, in un paese normale, ma non è un paese. Cioè, hai avuto paura di farlo? Ma io non è che ho avuto paura, ho avuto paura di farmi ridere in faccia da... Ma quanti soldi ti devono dare, scusa? Ma una decina di migliaia di euro. €10.000. Beh, hai detto, hanno chiamato? Manca tanto, sì, insomma. Hai detto, hanno chiamato chi? Cosa? Stavi dicendo prima, ha chiamato? No, dico, se io andavo a... Ah, poi mi ha chiamato anche uno della famiglia, anche molto tempo dopo, insomma, io ho detto che, insomma, lascia stare. Perché conosco benissimo le loro mosse, quindi vabbè. Mario, grazie di questo racconto. Ciao. Grazie. Ciao. Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Traffico veio chi là, vero chi là. La Zanzara. Allora, un ascoltatore sulla parola fedifraga, giusto? Fedifraga. Un ascoltatore che si chiama Diego mi ha scritto questa cosa meravigliosa. Ciao Cruciani, ecco come si dice. E mi manda una battuta, non so come definirla, un colloquio tra una donna e un uomo, tra due che stanno insieme, in cui la donna dice: amore, ti ho tradito, e lui: sei una fredifaga. No, fedifraga. Stai tranquillo, sei una fredifaga, fedrifafa, fefitata, freddifera, vabbè, una troia. I felt so good, like anything was possible. Hit cruise control. Strepitoso oggi, buon anno al Parlamento Europeo, hai visto? Con la maschera della Merkel davanti, è stupendo, ha dato la mano a Juncker, numero uno, è sceso dall'emiciclo di Strasburgo con addosso la maschera della Merkel. Quella mi sembra una cazzata in linea col circo, invece c'è, buon anno purtroppo fa scuola, perché c'è un deputato, mi pare ungherese, ho letto oggi, un deputato ungherese all'Europarlamento, tutto elegante, col papillon, che se uno lo vede dice: caspita, questo è anche una persona elegante. Beh, che ha fatto? Il quale ha detto, c'è pure l'audio in giro, ma io l'ho letto sull'Huffington Post. dice che gli immigranti in realtà sono la feccia. Vabbè, quello è un deputato ungherese, chi se ne frega? Cioè, un deputato ungherese è un cretino, vabbè. Ma come chi se ne frega? È un deputato ungherese, vabbè. Vabbè, un deputato ungherese al Parlamento europeo. Uno del uno del partito dell'ultradestra, del partito di quel criminale di Orban. Ma non è affatto un criminale, perché il tuo presidente del Consiglio. Criminale. Ma non è affatto un criminale. Orban è un. Orban è uno che è stato eletto dal suo popolo, che difende l'Ungheria. Anche Hitler l'ha stato eletto. Ma dal suo non popolo. Dire stupidaggini, dai. Allora, il non governo della Danimarca. Ma anche lui è stato eletto. È come Hitler. Ma Orban è come Hitler. Non ho detto questo, ho detto che non, è, che non necessariamente se uno va al potere democraticamente fa cose democratiche. Allora, dalla Danimarca esce fuori questo: cari immigrati, non venite qui. C'è una nei giorni scorsi il governo danese ha fatto pubblicare sui giornali libanesi in arabo e in inglese un annuncio a firma del Ministero dell'Immigrazione in cui si precisa che il nuovo governo di Copenaghen ha introdotto delle norme che riducono fino al 50% i sussidi ai profughi appena giunti nel paese e che limitano la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. Il ricongiungimento familiare non è consentito durante il primo anno per i titolari di un permesso di soggiorno temporaneo. Il ministro dell'integrazione dice che l'avviso è volto a informare oggettivamente e con sobrietà sulle regole del paese. Considerando l'ondata di arrivi in Europa in questi giorni, ci sono buone ragioni per rafforzare le regole e farlo sapere. Ma perché noi non facciamo sapere ogni tanto che non vogliamo arrivi irregolari, che non si possono ottenere permessi di soggiorno, eccetera, eccetera? Questi pubblicano delle cose in tutte le lingue, nei paesi arabi, capite? I governi che vogliono regolare la questione, come fanno? Andrea da Milano. E Sanni è un esempio. Come no, è un grande esempio, Andrea da Milano. Un grande esempio per te, che tu un grande esempio. Orban, figurati. Ma no, io non ho detto nulla di Orban, ho detto che certamente no, non è. Ti piace quel modello? No, no, no, no, no, ti sbagli, io non ho detto nulla a favore di Orban, io ho detto come semplicemente. No, no, no, ti più sbagli. Volte hai detto no, che quello è un paese che fa il suo popolo. Certo, come fa detto. La Germania, come la Merkel, certo, uguale. No, ecco, sono come due la Merkel. No, no, no, no. Quello è più subdolo, più furbo, quell'altro magari è un po' più rustico, più rustico. Sono due modi di tu hai detto, non sono due modi diversi per difendere il popolo. Andrea da Milano, vai Andrea, vai. Pronto? Andrea, dimmi. Sì, ciao, allora sono Andrea Ancona, conduttore di Radio Padania e conosco anche Parenzo. Sì. Ma siamo stati lontani parenti probabilmente qualche secolo fa, visto il mio cognome. Allora, io dico che voi, prima cosa Parenzo non si deve, cioè ognuno dico quello che vuole perché siamo in democrazia grazie a quel che è successo dopo la guerra. Però Parenzo dovrebbe evitare, barra, non dire che Radio Padania deve chiudere. Siamo? Perché noi non abbiamo mai augurato. Vabbè, se uno vuole chiudere, sì, certo, se uno vuole quello che vuole. Se uno, anche che io posso dire anche le bugie che Parenzo intende. No, ma che c'entra? Posso questo non ha a che fare niente con le bugie. Secondo no, Parenzo, Radio Padania andrebbe chiusa, secondo punto e basta. Parenzo, voi siete una trasmissione che dice che sta soltanto che insultare e dire parolacce. Eppure vi ascolto perché a volte mi diverto. Vabbè, ma quello sono quello che pensi tu, ma chi se ne frega di quello che pensi tu? Certo, che penso io. E io posso dire chi se ne frega di quel che pensate voi di Radio Padania. Io non ho detto che Radio Padania io non ho senti Andrea, fenomeno, a me non mi offendi, capito? Io non ho mai detto che Radio Padania deve chiudere, chiaro? Per cui non dire stronzate. Allora non attaccare me, attacca Parenzo e non mi rompere i coglioni. Sto dicendo di Parenzo. Allora non attaccare me. Allora, tu intanto quando parlo io sei zitto, se vuoi essere democratico. Senti, Andrea, se no, amico mio, senti, se vieni a rubare a casa, se vieni a rubare, a parte che hai chiamato tu, se hai rubato, sì. Se vieni qua a rubare a casa dei ladri, no, se pensi di venire qui niente, a rubare a casa dei ladri, no. Allora, a me stai zitto io quando parli, devi stare zitto quando niente. Parli, non me lo dici, no, non me lo dici, chiaro? No, perché zitto quando parli, ma che sto zitto? Quando parlo io sei zitto. Senti, Andrea. Quando parlo io sei zitto. Senti, Andrea. Scusa, cosa mi vai a fare le telefonate? Io gestisco le telefonate come mi pare a casa mia. Tu ecco, a casa tua, a Radio Padania, ecco, le gestisco come vuoi tu, chiaro? Io a Radio Padania lascio parlare a tutti, anche quelli ma come saranno te. Affari miei anche chi lascio parlare. Certo. Sono affari miei, Andrea, sono affari miei. Non mi vuoi lasciare parlare, non è un problema. Ma fai quello che devi dire. Siete dei maleducati, voi siete dei maleducati. Sapete solo che insultare. Io a volte mi diverto, a volte ma di chi stai parlando? Ma di chi stai parlando? Idee di Parenzo. Sì, di me di allora, Parenzo, ricordi che Buonanno è stato eletto, mentre tu non sei eletto neanche da vabbè, da, tu stai delirando. Io ho sempre tua. Difeso Buonanno, a me devi attaccare me. Buonanno è stato eletto. Buonanno, io sei, sto attaccando Parenzo. Sei al delirio, sei al delirio. No, al delirio hai utilizzato noi, capito? La parola noi. Al delirio sei tu. Vabbè, ma hai perso la testa, dai. Hai perso la testa. Succede di perdere la testa, eh. No, succede. Fenomeno mio, sei tu che non accetti una critica. Io non accetto la critica. Per me Radio Padania deve senza finanziamento pubblico deve sopravvivere alla grande, figura, sì, a me attacca. Ma tu sei capace di far parlare, ma dai, ma cambia. Vabbè, Andrea, mi hai rotto le scatole. Ciao. Sono Fabrizio e vi scrivo da dentro, da una gabbia di vuoto e cemento. Vorrei tanto parlare a un mio figlio, raccontargli la vita che ho fatto, che ho sbagliato, ma questo lo so, qui nessuno è nato perfetto. Di fronte a Dio mi pentirò, ma la giustizia è gettata nel cesso. Allora, ieri durante la presentazione del documentario su Corona, c'era anche Corona stesso, alla fine è stato proiettato questo filmato che è anche una canzone di Niccolò Morricone, che è un cantante amico di Fabrizio Corona, un ragazzo di 19 anni. Come si chiama questo? Niccolò Morricone. Niccolò Avevo capito Morricone, no, diciamo, fosse parere del grande Ennio Morricone. Ma non fare le solite battute, dai, su. No. Niccolò Morricone, 19 anni, cantante di Fabrizio. Abbiamo sentito il Casamonica che canta. Abbiamo sentito Morricone, andiamo avanti. Ma che c'è di male? Scusa, non ho capito. No, non c'è di allora, male, Niccolò, ciao, buonasera, ciao. Andiamo avanti. Ciao, buonasera a voi. Allora, ciao caro. Ciao. Qualcuno ha scritto il giornale, se non sbaglio, oggi. Il giornale ha scritto un articolo. Che vuoi far chiudere anche il giornale? Non ho capito. No, vuoi che chiuda anche il giornale? Non lo so. Anzi, non lo so. Cioè, il giornale e il quotidiano Libero, sì. E anche Italia Oggi, da oggi, sì. Devono esserci ogni giorno, anzi, anche due volte al giorno. Ma ci saranno a prescindere da quello che pensi tu. Allora, Niccolò, voglio chiederti una cosa: molti hanno interpretato, anch'io devo dire la verità, questo video come un video, una canzone contro la giustizia, cioè contro i giudici che hanno condannato Corona, mentre ci sono tante altre persone libere. E proiettare forse quel video alla fine di un documentario, di una giornata in cui non ci devono essere attacchi ai giudici, forse non è stata una bella idea, o no? Ma guarda, poi ti posso dire una cosa. Allora, il bello della musica è quello di utilizzare soprattutto delle metafore. Io ho ricevuto tante critiche, e va bene così. Perché cosa? Per questa roba qua? Soprattutto per la frase che la coscienza possa pesare ad ogni giudice corrotto. Mm. Allora, innanzitutto il giudice corrotto va interpretato come il giudizio, come posso dire, viziato dal pregiudizio, ovvero c'è quel giudizio che viene fatto dalle persone che però... Siccome nel filmato ci sono immagini di Corona, è chiaramente una canzone in cui si sostiene, che Corona è uno che è stato perseguitato dalla giustizia, o no? No, ma perseguitato no, dai, allora Fabrizio Corona, se vogliamo essere ipocriti, no, ma Fabrizio Corona è quel personaggio in cui io fa rispecchiare tutte le persone possibili che hanno subito anche loro delle ingiustizie, magari... Che ingiustizia ha subito, scusa? Che ingiustizia ha subito, signor Corona? Ma l'ingiustizia, io parlo, se vogliamo parlare di leggi, no, secondo te, non ho capito cosa sostiene. No, cosa sostengo? Innanzitutto io non sono un giudice, quindi io voglio capire quale ingiustizia giudicare in modo giudiziario, sì. Una canzone, io scrivo delle canzoni. Vabbè, però hai fatto, è una canzone anche di denuncia, se vuoi, no? Cioè, in cui parli di mala giustizia. Ma guardate che nel cantautorato non c'è, io non voglio paragonarmi a dei grandi, perché sinceramente non sono neanche un dito dei grandi come De André, ma è già lo stesso artista come Fabrizio De André ha scritto canzoni in cui parlava di giudici. Sì, però scusami Niccolò, tu hai fatto una canzone in cui c'è un chiaro riferimento alla vicenda Corona. Allora voglio capire da te, se al di là del fatto che è stato giusto o sbagliato mandare questo video alla fine della proiezione ieri, questo chi se ne frega, se vuoi, però voglio capire se secondo te Corona è un perseguitato dalla giustizia o no. Ma perseguitato dalla giustizia, allora io ti ripeto, ti do del tuo. Allora, sì, io sì, certo. non parlo di giustizia, cioè io ho scritto la canzone. Secondo me il caso di Fabrizio Corona è stato discusso, secondo me, troppo, nel come senso che ci sono state delle, da sempre ci sono dei casi in Italia che mi hanno lasciato. Ma però che c'entra Corona adesso con la sua canzone? Ha preso troppi anni, no? C'entra Corona con la canzone? Come no? Ma se non sai niente, allora. No, ma non capisco. Cioè, lui è un cantante, è un amico di Corona. Ho capito perfettamente. Ma io non ho scritto la canzone da amico di Corona, io non lo conoscevo Fabrizio. Ma va benissimo, ma non è questo il problema. Il problema è valutare lei, tu anzi. Per cui che hai scritto quel che canti, le tue amicizie. Vabbè, poi, senti, andiamo un attimo, solo pubblicità, amico di chi ti pare, ma stiamo parlando appunto di questo, di quello che ha scritto e di quello che ha cantato. Parenzo, ma che sei impazzito completamente? Pubblicità. Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Niccolò Morricone ha 19 anni, è un cantante che ha conosciuto Fabrizio Corona non so come, eh? Vi siete iscritti, che avete fatto? Da quanto lo conosci Corona, Niccolò? Ci siamo scritti quando lui era dentro, sì. Poco prima che uscisse. Sì, vi siete visti? Sì, lo sono andato a trovare a fine luglio in comunità. Ah, in comunità. E sì. La canzone quando è che l'hai fatta? La canzone l'ho scritta verso marzo-aprile. Marzo-aprile. Questo io dicevo prima al giornalista che io non ho scritto questa canzone perché sono un amico di Fabrizio, perché difendo Fabrizio Corona perché è un mio amico e quindi per... Però pensi che siano state commesse delle ingiustizie contro di lui? Ma penso io non... Che la pena sia esagerata rispetto ad altri... Allora, io come ci sono molti casi che mi lasciano perplesso, posso parlare del caso di Cucchi, del caso Aldrovandi. Il caso di Fabrizio Corona è un caso particolare perché è trattato da tutta Italia, è divisa in due l'Italia sul caso di Fabrizio Corona. E ho scelto di prendere questa strada per far rispecchiare tutte le persone nel caso di Fabrizio Corona, nel senso che ha subito un'ingiustizia, seppur diversa, può rispecchiarsi in questo. Che ingiustizia ha subito secondo te? Ma secondo me, ad esempio, voglio dire, ci sono persone che con un reato prendono, magari un reato grave, prendono meno anni rispetto a un'altra persona che compie tanti reati meno gravi. Per me questo, posso pensare che questo sia poco giusto. Vabbè, ma questo è solo... Ma che c'è stato secondo te un complotto contro di lui? Ma non c'è stato nessun complotto. E che ne so, perché i giudici hanno... Ma io ho scritto questa canzone per parlare non del caso giudiziario di Fabrizio Corona, per parlare della solitudine che una persona come Fabrizio Corona può provare nei momenti in cui è... Ma tu lo ammiri? Non ammiro Fabrizio Corona, io ammiro la solitudine che prova lui perché ma la, vediamo la provo com'è sta canzone. Come, non ho capito, scusa? No, dico, vediamo com'è sta canzone. Ma l'abbiamo sentita prima, l'abbiamo sentita. Fammela risentire le parole, solo che si ascolta. Questo fa il cantante, ha dedicato c'è la un canzone. C'è un passaggio contro i giudici, contro il sistema giudiziario italiano. Sentiamola bene. Ma è così, le prime strofe te le faccio sentire, senti. Fammele sentire, senti, perché sennò... Prima non stavi sentendo, evidentemente. No, ma quelle sui giudici non ho capito bene. Ma non hai capito bene. Perché non sentivi un cazzo. Forse devo sentire. Ecco, cioè, appunto. Vediamo. Sono Fabrizio e vi scrivo da te. Da una gabbia di vuoto e cemento vorrei tanto parlare a mio figlio, raccontargli la vita che ho fatto, che ho sbagliato, ma questo lo so, qui nessuno è nato perfetto, di fronte a Dio mi pentirò, ma la giustizia è gettata nel cesso. Giustizia gettata nel cesso, cioè secondo te la giustizia con Corona è stata un po' gettata nel cesso? Non c'è stata giustizia o no? Ah, cioè, ma io parlo perché io parlo sempre. Vabbè, ma non c'è niente di strano. Io so dove deve andare a finire questa conversazione. Però no, non deve andare a finire da nessuna parte. No, guarda, nel senso che io non parlo della situazione giudiziaria. Non parli della situazione giudiziaria. Parlo della canzone. Lo faccio nella canzone perché io quando scrivo dico la verità, con la musica. E qual è la verità? Quindi lei parla del processo. Posso permettere di dire una cosa adesso? Certo. In questo momento. Certo. Allora, in Italia, ma questo dappertutto, si critica l'artista come figura. Ma io non sto criticando nessuno. No, aspetta, fammi finire. Allora, si esce da un talent e il talent è il mezzo che ha ridicolizzato la musica e quindi non va bene. Vabbè. Perché è sputtanato. Si esce in modo indipendente, non va bene. Nessuno sta criticando nessuno. Questa è una canzone contro la giustizia e contro la giustizia che ha condannato Corona. Questo è evidente. Contro che è così. La mala giustizia. Vabbè, contro la mala giustizia ha condannato Corona. Vabbè, d'accordo. Uno può per avere lei tutta... quella è mala giustizia. Per lei quella con non Corona. Non mi metto a discutere con lei con del Corona... caso giudiziario Corona. Quello mi interessa. Ma non perché è lei, perché non mi interessa. Questa se ne mette via a discutere di una persona che è stata condannata con sentenza definitiva e è andato adesso a passare 5 anni gli ultimi a casa di un prete. E la giustizia gli ha fatto fatto anche un favore a farlo uscire per vedere il suo documentario. Favore, adesso è andato a presentare il che suo non era film, scontato. Ieri, benissimo, non mi interessa tutto questo. Mi interessa giudicare la sua canzone, che da un punto di vista musicale. Non è male, A me piace. Ecco, sì, no, infatti non è male. Ciao, no, ciao Nicolò, ciao. Non me ne frega ciao niente, Nicolò, ciao. Arrivederci. Allora, Andrea da Pistoia, vai Andrea. Andrea? Ehi, dimmi Andrea. Sono. Vai, dimmi. Eccomi, pronto. Togli viva voce, vai. Ci sono, vai, cazzo, dalle 2:30 sono qui a aspettare. Dai, dimmi. No, sono incazzato con te perché non saresti un cretino, però a volte prendi delle posizioni che veramente fanno indignare, abbi pazienza. Mi segui? Sì, ti seguo, vai. Ecco, allora... A un certo punto poi avevo anche lasciato perdere, poi 2 giorni fa mi casca sotto gli occhi sul Time Online i risultati di una ricerca sviluppata da un istituto universitario americano, dove viene fuori pari una correlazione fra gli uomini che pagano il sesso e gli uomini che usano violenza alle donne. Cioè loro hanno il risultato di questo studio praticamente... confermato l'ipotesi secondo cui gli uomini che pagano il sesso hanno una maggiore tendenza. È una stupidaggine colossale. Non capisco da dove possono aver preso questi dati. Cioè, chi paga le donne è più violento? Puoi andare, se tu leggi in inglese, puoi andare. Ma allora qual è il punto? Non ho capito. Il punto è che tu continui dire che esaltare che gli uomini devono andare con le puttane. No, io non esalto nessuno, figurati se esalto quello che va con le puttane. Non c'è nessuna esaltazione. Ho detto semplicemente che non ci vedo nulla di strano, nulla di male. C'è chi li chiama miserabili, io no. Ecco, stai dicendo qualcosa di criminale, perché innanzitutto tutte quelle povere ragazze che stanno sulle strade sono delle schiave e questo devi cacciartelo nella testa. Vabbè, poi, Don Cruciani. Poi, questo devi cacciartelo nella testa. Poi? No, e ti sembra poco che un cittadino, un padre di famiglia va a puttane con una minorenne e poi se lo beccano di mano, lo sapevo, dimostra 20 anni, c'ha l'età della tua figliola, va con questa e te non ritieni quel cliente il vero criminale? Beh, con le minorenni sì, certamente sì. No, minorenni o non minorenni? Beh, no, con le schiave. Ah, no, e poi mi devi anche spiegare, cazzo, non cruciare che... Dimmi, Massimo, dei miei coglioni, mi devi spiegare dove sta il divertimento, cazzo, di pagare per andare con una povera schiava che sta lì a pensare ai cazzi suoi, giustamente, perché immagini te che vita è fa... E te sopra che la trovi e si senti uno stallone. Ma che cazzo di uomini sono questi? Ma io non ho mai pensato una cosa del genere. Penso anche che ci sia la libertà di andare con una prostituta. Ovviamente se uno sa prima, cosa che non può sapere, che è una schiava sfruttata, certamente qualche problema me lo pongo. Però il problema non è mio, il problema è di... perché siccome gli uomini che vanno a puttane ci saranno sempre, il problema è della polizia, delle forze dell'ordine, dei magistrati. Perché, come dire, gli uomini che vanno a prostitute... Toglietevelo dalla testa, anzi ficcatevelo bene in testa, ci saranno sempre. Allora, qui abbiamo la vincitrice di Miss Trans 2015, grandissima, una ragazza campana di quanti anni? Non me lo ricordo, 23, 24, 25, Sara Paudicio, buonasera! Buonasera a tutti. Ciao Sara, come stai? Sono emozionata e ancora devo... Quanti anni hai? Quanti anni hai innanzitutto? Io ho 27 anni. 27, scusami, anni. Ti ho dato meno anni. Non ti preoccupare. Come ti chiamavi prima, Sara? Il mio nome è al maschile, lo devo dire per forza. Ma diciamolo, dai, che ci frega. Dai, diciamo. No, non lo vuoi dire. Non si dice. L'hai cancellato. L'ho cancellato. Ma quando hai fatto l'operazione? Cioè, zac. Mi sono operata 2 anni fa. 2 anni fa, ma è stata una cosa dolorosa, tremenda? Il dolore fisico, era abbastanza il dolore fisico. Ma come mai ti sei convinta a diventare completamente donna, diciamo? Qual è stata mi la cosa? È perché, come vedevo... Mi vedevo molto bella, mi vedevo molto donna, sì. E mi vedevo un quadro senza cornice e mi volevo completare. Mi mancava qualcosa. Bella questa, un quadro. Bellissimo, un quadro senza cornice, bellissima questo. Bello. Ma l'operazione com'è? La paga lo Stato? Come funziona? No, assolutamente. Te la sei pagata tu? Assolutamente, sì. Io, perché l'ho voluto fare io, mi sono operata a Bangkok, in Thailandia. Però voglio precisare una cosa, se me lo permetti. Precisiamola, come no? Perché ci sono dei centri... Qui, sì. Specialmente in Toscana, sì. Che aiutano in questo percorso le ragazze transessuali nel loro percorso, beh, anche dal punto di vista psicologico, no, anche l'intervento di cambio sesso. Ah, certo, no. Cioè, si può fare anche in Italia, dici tu. Si può fare, ma tu perché l'hai fatta a Bangkok? Perché l'hai fatta? Io l'ho fatto a Bangkok perché sono stata, ero in vacanza, ero lì. Sapevo che c'erano dei dottori molto bravi, molto esperti nella cosa. Tra varie visite, vari diciamo. Hai deciso di farlo là? Ho deciso di poi farlo. Quanto là, costa? Però, ho pagato 10.000 euro l'intervento. 10.000? Sì. 10.000, vabbè, però ne valsa la pena. Adesso sei. Ne valsa la pena. Sara Paudicio, ma i tuoi genitori che dicono? I miei genitori sono felici. Sono felici? Cioè, non mi dire che tuo padre, di dove sei tu? Io sono di Napoli, sono di Portici. Adesso, per carità, non voglio citare dei pregiudizi o avere dei pregiudizi, ma tuo padre appena ha saputo che tu, insomma, quando ha saputo che non eri mio propriamente padre, un uomo? No, mio padre è un uomo di larghe vedute, è un uomo molto aperto mentalmente e mi ha sempre appoggiato e sostenuto. Ti ha sempre appoggiato? Sì, io tutti ma gli lei interventi... ha fratelli, sorelle? Io ho un fratello. Ma senti, ma un ascoltatore mi chiede, scusa, una cosa un po' tremenda, ma le parti intime che tu hai tagliato, che fine fanno? No, ma ti giuro, me l'ha chiesto un mio amico avvocato, uno non è uno qualsiasi, cioè vengono buttate, vengono conservate. No, ascolta, vai su internet e ti vedi l'intervento. Ecco qua. Cioè, hai pubblicato l'intervento, no? No, non il tuo. No, il mio, ma ci sta su internet, perché tu prima ti inizia l'operatorio. No, ma sono curioso, che succede? Viene buttato via? Che succede? Dai! Ma dai! Ma no, ma è una curiosità, no. Non ti sto mica chiedendo altro. Allora, no, i testicoli vengono rimossi e poi diciamo con tutto il resto viene creato, diciamo, questo organo femminile, no? Ah, con lo stesso materiale. Sì, con lo stesso materiale del pene. Sì, esatto. Io non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo. Sono davvero contenta, lo rifarei milioni di volte. Brava. Ma io sono amico di tutti i trans d'Italia perché la discriminazione contro i trans che c'è ogni tanto è vergognosa. E soprattutto c'è una comparazione che viene fatta spesso tra i trans e le prostitute. Sì. Cioè, perché ogni tanto capita naturalmente che una persona transessuale viene dall'estero qui e si prostituisce. Sì. Tu che hai fatto nella tua vita? Ti sei prostituita mai? Io no, assolutamente no, non ho avuto questo bisogno perché ho avuto mio padre che... E che fai di mestiere? No, attualmente sono ferma perché ho un problema a casa da risolvere con mia mamma che ha un problema di salute. Infatti la mia vittoria della corona di Miss Italia Trans è dedicata non solo alle donne transessuali come me, è dedicata anche a mia mamma che da un anno sta lottando contro un brutto male. Devi vincere questa battaglia. E facciamo gli applausi alla mamma di Sara Paudicio e do appuntamento a Sara perché deve essere un'intervista molto più lunga. Facciamo prima parte Sara Paudicio 1 e domani Sara Paudicio 2 Miss Trans 2015, perché volevo chiedere un sacco di cose, la vittoria, Miss Italia, eccetera, eccetera. Sara Paudicio domani, mi raccomando, ragazzi, non mancate. Sara, ti abbraccio. Viva i trans! Viva i trans! Viva i trans! Ciao. No, questa sera veramente mi hai fatto incazzare, Cruce. Guarda, veramente ti porto in pancia, ma questa sera per me sei fuori di testa, cazzo, sei sbroccato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendato, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.